Venghino, signori e signori, il circo sta iniziando. Lo spettacolo per bambini più bello del mondo. Abbiamo leoni, elefanti, scimmie e serpenti. Tante attrazioni che vi faranno sognare. Pagliacci, tanti tromboni. Uno spettacolo coi pinguini. Venghino, signori e signori, a vedere il circo più grande del mondo. I nostri cavalli cantano il tango, i nostri elefanti suonano il banjo. Al mandolino c'è Johnny Balena che quando suona balla anche la luna. La nostra più grande attrazione è Mistress Coraggione. Ne pensa una, ne fa un milione. Ancora due minuti e poi si partirà. Le vele al vento, leva l'ancora in tutta tranquillità. Saltiamo verso il mare che libertà ci dà. Ci siamo pronti per partire, ci siamo pronti per ritornare, ci siamo pronti per sognare nell'illusione a navigare. Acrobati che sopra un filo fanno gli acrobati, cani che da un cappello fanno uscire coriandoli, nani che capriolano restando uomini. E sì, perché il circo ci dà una grande lezione di umiltà. Ancora due minuti e poi si partirà. Le vele al vento, leva l'ancora in tutta tranquillità. Salpiamo verso il mare che libertà ci dà. Ci siamo pronti per partire, ci siamo pronti per ritornare, ci siamo pronti per sognare nell'illusione a navigare. Ancora due minuti e poi si partirà. Le vele al vento, leva l'ancora in tutta tranquillità. Salpiamo verso il mare che libertà ci dà. Ci siamo pronti per partire, ci siamo pronti per ritornare, ci siamo pronti per sognare nell'illusione a navigare.